L'accordo fra Enlan e Aiwan andò facendosi sempre meno stretto e più incerto. Il latente dissidio si accentuò specialmente nella stagione in cui il Cao Liang fu alto, abbastanza da permettere le imboscate, e le squadre uscivano ogni giorno a guerreggiare. Quando ammazzavano nemici, Aiwan non diceva nulla, ma spesso portavano con sé anche dei prigionieri, e qui cominciavano i guai. Era inutile. Anche su questo capitolo, Aiwan era più progredito di Enlan, che non perdeva nulla della sua originaria e primitiva natura. Pareva che Enlan fosse incapace di dimenticare la sua infanzia povera, le carestie di cui era stato testimone, le privazioni che aveva sofferte. Delle sue sofferenze teneva responsabile l'intera umanità e, fedele a chi gli era fedele, odiava tutti coloro che non erano come lui. A non essere poveri c'era da essere odiati fino a rischiare di venire uccisi. Per Enlan poi un giapponese era qualche cosa meno di un uomo. Aiwan, cresciuto in un clima più mite, non aveva invece grandi amarezze da ricordare. Tutte le cose che un tempo gli erano state motivo di amarezza, ora gli apparivano insignificanti. Da bambino aveva odiato la nonna, ma quando nel secondo mese di quell'anno ella morì e la salma, racchiusa nella bara, fu collocata in un tempio in attesa della pace, i tempi non erano propizi alle grandi cerimonie funebri, si sorprese a domandarsi perché si fosse tanto amareggiato per l'odore dell'oppio che s'affumava e non si fosse piuttosto ricordato che la nonna lo amava con costante tenerezza, coccolandolo anche quando lui si mostrava di malumore. Così. Un altro motivo di dissenso fra lui ed Enlan, ora che vivevano in intimità la loro vita quotidiana, fu il fatto che Enlan faceva uccidere i prigionieri. Qualche volta il dissenso sboccava in aperto litigio e doveva intervenire peoni a rimproverarli e a cercare di spiegare a ciascuno il punto di vista dell'altro. Tu, Enlan, sei troppo ostinato, ostinato come un bue sei, e tu, Aiwan, sei anche tu ostinato, ma come un cavallo capriccioso e scalpitante, che è stato nutrito con troppa delicatezza e che non ha mai conosciuto altro che una briglia d'oro. Ora, bue, non chiedere al cavallo di farsi bue, e tu, cavallo, ricordati che hai da fare con un bue. Su quel capitolo dei prigionieri, tuttavia, nemmeno Peonia riusciva a farli ridere e a rapacificarli. Prima della venuta di Aiwan era stato costume degli uomini di Enlan di uccidere tutti i nemici che cadevano prigionieri, salvo alcuni. Alcuni che a parere loro avevano aspetti inusitati o che giovani e ardenti non cedevano subito, o per i quali comunque pareva che una morte troppo rapida fosse un riguardo. Costoro erano riportati vivi alle posizioni di partenza dei razziatori e finivano tra lente ed efferate torture. In un primo tempo erano chiusi in gabbie, oppure incatenati a un albero, con licenza per chiunque di venirli a vedere, di sputare loro sulla faccia, o di pungerli con forconi, o di arrostire loro i piedi con torce accese. In una parola, di infierire e di divertirsi con l'accanimento della gente primitiva che ha un nemico alla sua mercé. Un giorno Aiwan non si tenne più e corse infuriato da Enlan. «E tu permetti questo?» domandò. «Che cosa?» rispose Enlan. Era seduto in una stanza occupato a studiare sulla carta una certa strada dove per quella notte era stato prestabilito un attacco. «Guarda fuori dalla porta!» gridò Aiwan. Enlan si fece alla porta e guardò. «Che c'è?» «Ma non vedi niente!» «No, non vedo niente», disse con ostentazione l'amico. «A meno che tu intenda alludere a quegli uomini che giocano laggiù». «E lo chiami gioco?» gridò Aiwan. In quel momento un tale emerse dalla folla sghignazzante, affondando il pollice in un occhio di un uomo incatenato, glielo fece schizzare dall'orbita. Il prigioniero lanciò un grido, poi si morse le labbra e tacque, ma nella cruda luce il sudore gli inondava il volto. «Ma non puoi mica negare tutto a questi uomini», disse freddamente Enlan, guardando. «Pensa a quello che hanno gli altri soldati quando sono vittoriosi. Denaro, razioni supplementari, vino, bottino. Ma i nostri sacrificano le loro vite ogni giorno senza che per questo il loro povero cibo vari. Noi, dal canto nostro, non abbiamo denaro da dar loro e di bottino non si parla. È gente semplice, la nostra, e bisogna pure che abbia qualche cosa». «Ma non giochi degradanti come questi!» replicò Aiwan. «Questi sono giochi da selvaggi!» non sono forse dei selvaggi», rispose sempre calmo Enlan. Guardò Aiwan con occhi brillanti e più duri. «Sei ancora il sognatore che eri, Aiwan? Credi sempre che i poveri siano migliori dei ricchi? Io i ricchi li odio. Ma i poveri non sono mica dei, non sono altro che dei bambini, e almeno quello che fanno lo fanno alla luce del sole. Aiwan si sentì male, entrò nella camera, appoggiò il braccio alla parete e si nascose il volto. Sei troppo schizzinoso, gli disse dopo un momento Elan, non senza un'ombra d'affetto. Avresti dovuto farti alla mia scuola, indurirti come me. Da bambino aiutavo mio padre ad ammazzare i maiali. Durante una carestia aiutai mio padre ad ammazzare il nostro bue per procurarci da mangiare. Crebbi fra i banditi e le loro imprese, vidi tagliare nasi, cucire occhi, recidere orecchie, flagellare schiene. E per quanto indietro vada col pensiero, un morto era sempre niente. Che cosa dovrebbe importarmi di un giapponese? Aiwan si raddrizzò, si asciugò il viso e sedette. Un giapponese è un uomo anche lui, disse, ma soprattutto mi fa vergogna vedere cinesi compiere simili atti. Dimentichi che cosa hanno fatto i giapponesi a Nanchino? Domandò irato Enlan. Nulla di quel che possiamo fare noi basterà alla vendetta. So tutto e non li scuso, rispose con energia Iwan. Ma dico, se i giapponesi sono come sono, la cosa non mi riguarda. Mi riguarda invece se il mio popolo. Ah, sentilo il patriota. Lo interruppe Lan. Oh, che patriota, Iwan, sei uno sciocco. Te lo dico senza perifrasi. Quando sarai passato attraverso le vicende per cui sono passato io, più vedo queste cose e più le detesto, proruppe con violenza Iwan. In tal caso farai meglio ad andartene, dove di queste cose non se ne vedono, dichiarò Lan. Forse ti piacerebbe appoggiare l'opera benevola dei giapponesi e diventare magari uno dei loro governatori fantoccio? A quelle parole Aiwan sentì la collera traboccargli nel petto, balzò in piedi e si lanciò contro Elan, il quale, non preparato, cadde sotto di lui sul pavimento di terra compressa. Si impegnò allora una lotta accanita, come se invece di due uomini fossero stati due ragazzi. Ciascuno aveva afferrato i capelli dell'altro alla sommità del capo e scuoteva l'avversario con tutte le forze. Così li trovò Peonia, che entrava in quel mentre. Dormiva nell'altra stanza e le voci l'avevano svegliata. Strillando cercò di separarli. Vergogna! Aiwan, come osi? E tu, Enlan, sciocco! Aprì la bocca e morse loro le mani, costringendoli a lasciar presa. Entrambi si alzarono, strofinandosi le mani che dolevano. Sanguino! Disse Enlan. Ben ti sta, gli rispose Peonia. Aiwan cavò il fazzoletto, si avvolse con esso la mano sanguinante e non disse nulla. Che cosa avete da litigare? Domandò Peonia. Enlan rise, l'ho chiamato patriota e lui mi è volato addosso. Lei non volle credere. È stato per via dei prigionieri, disse improvvisamente Aiwan. Che prigionieri? Guardarono fuori, ma nel frattempo il prigioniero era stato portato via. È morto, proruppe ancora Aiwan. E allora che ragione c'è di accapigliarsi? Insinuò suasiva Peonia. Altri prigionieri seguiranno domani. Aiwan vuole che siano tutti uccisi con riguardo, disse Enlan, ma io dico che i nostri uomini devono trovare qualche diversivo alla dura vita che fanno. E io affermo che spetta a noi insegnar loro un po' di civiltà. Guardò Peonia. Enlan, proseguì, dice che io sono molle, ma anche tu hai vissuto nella casa di mio padre da bambina. Ho ragione o torto? Poco gli importava della risposta, perché sapeva di aver ragione. Ma Peonia, intervenne aspro Enlan, era una schiava che nella casa di un ricco è costretta a soffrire. Aiwan ha ragione lo stesso, disse lentamente Peonia. Quello che fanno i nostri uomini non giova loro, Enlan. Io capisco, Aiwan. Qualche volta quando la sua nonna soleva bruciarmi con la sua pipa, e in così dire, arrossendo un poco, guardò Aiwan. Ricordo che in cuor mio dicevo alla vecchia: sei tu crudele, cattiva e malvagia, non io. Io non ho che un pezzettino di carne dolorante nel braccio, ma tu sei tutta malvagia. La nonna faceva questo? Domandò Aiwan a bassa voce. Peonia si rimboccò la manica e mostrò sul magro braccio una fila di cicatrici profonde e rotonde. Non mi dicesti mai nulla, mormorò lui. Non potevo dir nulla a nessuno, rispose tristemente Peonia. Non so perché tacessi, credo perché le cicatrici facevano di me una vera schiava, perciò le nascondevo. Avresti dovuto dirmi qualche cosa, disse Iwan. Avrebbe pianto di rabbia. Io detesto, non importa quale tortura. Anch'io, rispose con semplicità Peonia. Si riabbassò la manica e, rivolta a Denlan, Aiwan ha ragione, gli dichiarò. Forse ha ragione, convenne Lan, ma era impossibile leggergli sul viso quanto ne convenisse nell'intimo. Da quel giorno, comunque, Aiwan non assistette ad altre torture. Poco tempo dopo gli eventi narrati, Aiwan cominciò a perfezionare certo progetto che era andato lungamente rimuginando fra sé. L'idea gli era nata molti mesi prima, immaginando quello che avrebbe fatto nel caso in cui, guidando i suoi uomini in qualche segreto attacco, uno dei nemici che doveva uccidere o che doveva veder uccidere da altri si fosse rivelato per Bungie. Era un pensiero vago e lì per lì lo cacciò. Le possibilità di un incontro di quella fatta erano infatti assolutamente minime, ma non erano nulle. Perciò non trascurava mai di scrutare i giapponesi, sia che li vedesse dal nascondiglio nel quale si trovava lungo una strada o attraverso una porta improvvisamente aperta su di un intero interno di uomini sorpresi, e di accertarsi con un rapido sguardo che nessuna delle facce fosse quella di Bungie. Del pari non uccideva mai un nemico alle spalle per timore d'avere a che fare con lui. Se qualcuno dei prigionieri tentava di fuggire, egli sempre per quel timore, se non ne aveva veduto prima il viso, lo lasciava andare. Tuttavia di Bungie non aveva mai più saputo nulla. Tamano gli disse mai dove si trovava, dato che lo avesse saputo. Si limitava a scrivere che suo fratello era ancora vivo, che stava bene, che il suo unico figliolo cominciava a camminare e che Setsu, sua moglie, non vedeva l'ora di avere un altro figlio. Ma chi poteva dire quando questo suo voto sarebbe stato esaudito? La guerra, nonostante tutti i preannunci di prossima fine, non finiva mai, e finché sapeva che Bungie era vivo, Aiwan aveva paura di incontrarlo. Naturalmente non aveva dubbi sul modo come si sarebbe comportato nel caso in cui avesse trovato che fra i prigionieri c'era pure Bungie. A ogni costo lo avrebbe aiutato a fuggire. Quella decisione l'aveva presa molto tempo addietro, sin dal primo momento in cui aveva pensato all'eventualità di un incontro col cognato. Prima, però, avrebbe parlato con lui e gli avrebbe spiegato la inutilità della guerra mossa dai giapponesi al suo popolo. Aiwan aveva parlato con centinaia di prigionieri e sapeva ora che nessuno aveva loro spiegato perché fossero stati strappati dalle loro famiglie e dalle loro case per essere inviati a morire in Cina. Nelle tasche dei morti aveva spesso trovato lettere la cui lettura gli era stata utile per comprendere il pensiero e i sentimenti di chi le aveva scritte. Sempre vi era ripetuto il medesimo motivo: essere quella una guerra giusta e necessaria, una guerra che si combattevano per salvare i loro focolari e la patria. Ed egli avrebbe pur voluto dir loro: noi non vogliamo il vostro paese e voi non avete alcuna necessità di difendervi da noi, perché dunque siete morti? Ma erano morti e non potevano ascoltarlo. Poi pensò ai molti prigionieri che i soldati riportavano dalle loro incursioni fino al giorno in cui Enlan, per pietà e dopo che Peoni aveva mostrato i segni delle sue scottature, aveva messo fine all'abitudine. A quel pensiero un altro gliene venne: perché non riveliamo ai prigionieri la verità? Converrebbe trattarli con umanità e restituirli poi al loro esercito. Faremo di essi dei messaggeri di verità fra i loro camerati. Espose il suo progetto ad Enlan, tutt'altro che sicuro dell'accoglienza che l'amico avrebbe riservato alla sua idea. Chissà se Enlan gli avrebbe ripetuto che era d'animo debole. Invece Enlan lo approvò senz'altro con entusiasmo. Se un uomo non crede a quello che fa, il suo braccio si fa pigro, disse, e se noi riusciremo a diffondere il dubbio tra i nemici, facendoli dubitare dei loro capi, tanto di guadagnato. Più Enlan ci pensava e più l'idea gli piaceva. Batté fra le sue la mano di Aiwan, rise ed esclamò: splendida idea! Vale la cattura di un treno carico d'armi. Ohé, dico, in quella tua zucca c'è del sale, Aiwan. Eppure non avrebbe nemmeno lui saputo bene specificare come. Il suo progetto non combaciava perfettamente con l'idea che se ne faceva Elan, ma non ci badò più che tanto. Se il progetto era attuato, il fine sarebbe stato raggiunto. La truppa, quando Enlan l'ebbe messa al corrente del progetto, lo trovò un trucco ingegnoso e non fece resistenze. Da quel giorno un certo numero di prigionieri furono mantenuti in vita, nutriti e trattati con attenzione, non solo, ma educati, come diceva Enlan, per una settimana o due. Dopodiché venivano rimessi in libertà con loro attonita meraviglia. Ma il progetto di Aiwan non doveva mai essere applicato come era stato ideato a favore di Bungie. Nell'autunno Tama lo informò per lettera con profondo e accorato dolore dell'avvenuta morte di Bungie nel combattimento di Tiger Chuang. Aiwan lesse e bruciò la lettera. Faceva così per tutte e si chiuse in camera sua col cuore stretto, ricordandosi del Bungie che aveva conosciuto la prima volta che aveva messo piede in casa Muraki. Che ragazzone allegro, che cuore cordiale. Se non ci fosse stata la guerra, che lunga, che felice vita avrebbe riservato a Bungie il destino. Ma presto la guerra lo aveva guastato. Bungie era troppo semplice per lo sforzo e l'asprezza della guerra, così ne era uscito spezzato, e tutte le paure di incontrarlo si rivelarono vane. Vane quanto le speranze di Setsu, la quale ormai non avrebbe più potuto avere un secondo figlio. Un giorno di quell'autunno Aiwan ricevette un telegramma da Chiang Kai-shek con l'ordine di presentarsi. Il telegramma annunciava che sarebbe arrivato MacGurg con l'apparecchio non appena la tempesta che allora infuriava sulla regione si fosse placata. Aiwan mostrò il messaggio a Den Lan, lo studiò con lui, ma per quanto si scervellassero, non vennero a capo di nulla in quanto ai motivi della chiamata. Finirono col ritenere che almeno non avesse nulla a che fare con lo Stato, dato che se ci fosse stata una ragione ufficiale non avrebbero comunicato il messaggio ad Aiwan soltanto, a meno che, disse Lan, non sia scontento di qualche cosa e voglia servirsi di te come di un ambasciatore. Ma neanche questa ipotesi li soddisfece. Pochi giorni prima, infatti, si erano entrambi rallegrati di certo inatteso dono in denaro di Chiang Kai-shek. Il dono era stato dedicato all'acquisto di abiti invernali per la truppa ormai a brandelli. No, piuttosto, penso Aiwan, doveva trattarsi di qualche cosa di particolare, di privato. Col pensiero volò a Tama. Poteva darsi che Chiang Kai-shek volesse metterlo alla prova circa la moglie giapponese. Per un istante pensò che mi voglia chiedere di rinunciare a lei. No, non avrebbe rinunciato mai a Tama, lo sapeva. Lì per lì deliberò tuttavia di non fare progetti, avrebbe deciso sul suo comportamento e sulle parole che avrebbe dette a Chiang Kai-shek soltanto al momento voluto. Alla peggio, pensò, avrebbe pur servito a qualche cosa e sarebbe stato pegno della sua sincerità. Il fatto che era tornato in patria e combatteva ora per essa. Aveva dato il presente alla patria. Quanto c'era fra lui e Tama apparteneva, semmai, al passato e all'avvenire. Con nessuno poteva vincolarlo, quell'avvenire che nessuno del resto era in grado di conoscere. Così, rincuorandosi, fece un fagotto delle sue robe, lo legò alla maniera dei contadini in un fazzolettone quadrato e si fece trovare all'aerodromo da MacGurg in attesa. Pronto? Bofonchiò MacGurg, sporgendosi dal fianco dell'apparecchio. Pronto? Bene, fra 20 minuti voleremo via. Ciò detto, MacGurg saltò a terra, si levò il berretto e ne scosse via la polvere. Perbacco, volare oggi è un gioco da equilibristi, niente di paragonabile al beato volare del tempo quando il capo era Nanchino. L'atmosfera di Ankao a qui è piena di sacche d'aria, in ognuna delle quali sono regolarmente incappato. Camminavano verso le fattorie dove era il campo di Enlan. Un sorso di tè, una sigaretta e poi via, proseguì MacGurg. Abbiamo ancora un buonissimo margine di luce. Sedettero a una tavola collocata all'esterno dello spaccio di tè del villaggio e la vecchia moglie del padrone si fece premura di strofinarla con uno straccio che pareva nero, tanto era sudicio. Poi alitò nelle tazze di tè, fece per ripassarle col medesimo straccio, McGurk la fermò con un urlo. Ehi, basta con questa vostra pulizia, ehi, dico! Poi, volto ad Aiwan, ditele che voglio le tazze sporche, diteglielo! Posso benissimo fare le mie volatine fra una raffica e l'altra di pallottole, ma coi microbi, che sono un'altra cosa, non voglio averci a che fare, capito? Squadrò la vecchia con finta collera, mentre Aiwan le diceva di lasciare in pace le tazze. Poi MacGurg, vedendola che si faceva piccina sotto il suo sguardo, contrasse la faccia in una larga smorfia consolatrice. Niente, niente, vecchia dama, le disse. Le tazze me le laverò io con vostra licenza. Versò un po' di tè bollente, sciacquò la tazza, gettò via il liquido, la riempì di nuovo, soffiò sopra il tè bollente e lo sorbì rumorosamente. Non imparerete mai il cinese quanto basti per fare da voi le vostre proteste? Domandò di buon umore Iwan. Eh no, caro, non m'occorre, rispose McGurk. Se urlo con abbastanza fiato qualche cosa e se lo ripeto un paio di volte, fulminando con gli occhi il cinese che mi ascolta, state certo che mi capisce abbastanza bene. Ma non ho gran tempo a mia disposizione, questo è il guaio. Poco dopo, tornati all'apparecchio, si innalzavano. Stavolta Iwan vide molti particolari del suo paese che prima ignorava. Le montagne si snodavano sotto di loro in lunga teoria, sotto vasti giochi di nuvole. Ma Iwan non poteva fermare il pensiero al godimento di cose belle, roso com'era dal desiderio di conoscere il motivo per cui Chiang Kai-shek lo aveva fatto chiamare. Non era mai stato ad Ankao, benché quando era bambino suo padre solesse dire che dovevano presto tornare nella Honan a rivedere le vecchie terre della famiglia, dalle quali ricevevano ancora i redditi. Aiwan sapeva solo che la città di Ankao, che sorgeva su una delle rive dello Yangtze, e la città di Wuchang, che sorgeva sulla riva opposta, erano come i due giganteschi pilastri di una porta che si apriva sui vasti territori delle province interne, nei quali erano le terre a vite che nemmeno il nonno aveva mai viste. Le terre coltivate da generazioni di contadini che di padre in figlio avevano mandato a Shanghai gli affitti come un tributo a un non conosciuto imperatore. Ma chi fossero, Aiwan non lo sapeva. E non ci pensava, se non quando sentiva suo padre che diceva: "Quest'anno i redditi delle campagne sono buoni." Oppure, in questi ultimi 2 anni non abbiamo ricavato niente dalle campagne. L'anno scorso per via delle inondazioni e quest'anno per colpa dei banditi che imperversano. Ma nella casa di suo padre, qualunque fosse l'andamento dell'annata, tutto era sempre uguale. Percorrendo in auto le strade di Ankao, diretto alla casa dove lo attendeva Chiang Kai-shek, guardava con curiosità la gente, ascoltandone i discorsi. Li capiva. Ma la cadenza del linguaggio era diversa da quella di Enlan e soprattutto differiva dal suo proprio idioma shanghaino. E tuttavia quello era il suo popolo, il popolo al quale apparteneva. La gente di Tama, pensò, era unita, omogenea, ma la sua? Quando quella guerra che per la prima volta aveva cementato le diverse regioni della Cina fosse comunque finita, che cosa avrebbero trovato i cinesi per essere e mantenersi un popolo unito? Si era posta la domanda molte volte, pensando molto nell'intimo dibattito a sé ad Enlan. Quella guerra serviva ancora da cemento, ma una volta finita, che cosa sarebbe rimasto se la memoria non serviva? E la memoria umana non serviva mai. Ci doveva essere qualche cosa d'altro, qualche cosa di forte come la guerra e di necessario come la difesa contro un nemico, per tenere uniti i cinesi. Così, almanaccando sull'avvenire, era ormai un'abitudine, fu scosso da una brusca fermata della macchina. Erano davanti a una casa di mattoni di apparenza modesta e il guidatore indicò col pollice che erano arrivati al luogo convenuto. Aiwan saltò giù solo. McGurk era rimasto al campo a riparare un guasto all'apparecchio e suonò il campanello. Gli aprì un cameriere vestito di bianco. Capì che era atteso perché il cameriere lo salutò con un inchino e, accompagnato che l'ebbe in una saletta appartata, lo pregò di accomodarsi e di attendere alcuni minuti. Rimasto solo, Iwan sedette e attese. Nella stanza non c'era nulla che richiamasse il suo interesse. Il mobilio era di tipo comune. Stava per riassorbirsi nei suoi pensieri quando la porta si aprì e comparve suo padre. Aiwan, stupefatto, balzò in piedi. Siedi, gli disse suo padre. Sedettero entrambi. Aiwan notò che suo padre aveva il viso stanco ed era molto più magro dell'anno prima. Non state bene, babbo? Domandò. Più lo guardava e più si sentiva ansioso. Non aveva mai visto suo padre così mal ridotto, senza più nulla della vecchia energia e caparbietà. Seduto sulla sua sedia, aveva l'aria di chi pensi con sforzo a rialzarsi. Sto bene, come si può stare di questi tempi? Fu la risposta. E poi, questa guerra ci uccide tutti in un modo o in un altro. Ricevo ora una lettera da Nanchino. Si fermò e poi proseguì. A modo mio avevo contribuito a costruire la città nuova di laggiù, grossi prestiti, ne ero fiero. Ma ora tutto è sparito. Volete dire che la città è rasa al suolo? Domandò a bassa voce Ai Wan. Ricordava che a Nanchino, prima che lo ricevesse Chang, suo padre gli aveva indicato vari grandi palazzi, vantando le belle strade nuove che avevano sostituito le stradicciole tortuose della vecchia città. Tutti ne erano orgogliosi. Quello che ancora non è distrutto, continuò suo padre, è nelle mani del nemico. Poi, sporgendosi avanti col busto, mise le mani sulle ginocchia e sussurrò ai Daiwan: Ma quel che mi rivolta e mi terrorizza non sono i morti. Non sono le case in rovina, ma questo. In ogni strada si vende liberamente l'oppio. Si vogliono rovinare anche coloro che ancora sopravvivono. Ai Wan, costernato, gli vide il volto rigato di lacrime che egli neppure si tergeva, ma che anzi lasciava colare liberamente giù per le gote. Non reggeva quella vista, e tuttavia che dire? Abbassò gli occhi e tacque. Piango. Per qualche cosa che merita il pianto, disse finalmente suo padre, col tono di chi quasi si scusa. Si asciugò gli occhi con i lembi delle maniche e poi, quasi supplichevole, Ai Wan, puoi dedicare alcuni giorni a una visita alle terre con me? Un giorno o l'altro apparteranno a te e ai tuoi figli. Io non mi stabilirò mai in esse, ma tu forse ci andrai un giorno con la tua famiglia. Rievocando più tardi quell'incontro, Ai Wan si ricordò che anche lì per lì gli era parso strano che suo padre non avesse fatto il nome di Aiko, limitandosi a dire le terre saranno tue. Sono pronto ad andarci, disse. Le province interne saranno forse tutto quanto ci sarà lasciato della Cina, continuò suo padre. Chi può dirlo? Ma qualche cosa di buono deve pur sorgere da quanto ci capita. La gente si è rifugiata laggiù dalle perdute province costiere e con essa le scuole. La scorsa settimana ho sottoscritto un prestito di molte migliaia di dollari per il trasferimento di una ferriera da Ankao verso l'interno. Chiang Kai-shek non difenderà Ankao? Suo padre scosse il capo. Canton fu abbandonata ieri. Ancora pochi giorni e sarà la volta di Ankao. Bah, spero che Chiang abbia ragione, sospirò. Se non ha ragione, se non la imbrocca, allora davvero siamo tutti perduti. Tacque un momento, seduto dov'era. Ai Wan si domandò se per caso la fiducia di suo padre in Chiang Kai-shek non fosse alquanto scossa. Canton perduta! E poi Ancao! In quel momento la porta si aprì e comparve la moglie di Chiang Kai-shek. Entrambi si alzarono. Lei salutò con un cenno del capo e disse con la sua voce morbida e tranquilla: Il generalissimo vi aspetta. Ciò detto, li condusse attraverso una saletta fino alla stanza dove era Chang. Vedendoli entrare, Chiang Kai-shek si alzò. Ai Wan non lo aveva mai visto in piedi. La sua magrezza e il portamento eretto lo facevano apparire più alto di quanto fosse in realtà. Non disse nulla. Si risedette, tutti lo imitarono. Sua moglie tastò la teiera per sentire se fosse ancora calda e versò il tè nelle tazze. Tutti i suoi gesti erano sciolti e graziosi. Gli occhi di chi la vedeva erano naturalmente attratti dalla curva del suo collo, dalla piega del suo capo, dai rapidi, accurati gesti delle sue mani. Guardò il marito ed egli ricambiò l'occhiata con un cenno del capo. E subito ella si ritirò e chiuse in silenzio la porta dietro di sé. Ora erano soli davanti a Chiang Kai-shek. Ai Wan alzò gli occhi con espressione interrogativa. Ti ho mandato a chiamare per due ragioni, disse Chang, senza saluti né preamboli. La prima è per informarti della morte di tuo fratello maggiore. Disse quelle parole con voce forte, poi si fermò in attesa che Ai Wan si rendesse ben conto del loro significato. Ma non fu cosa facile per Ai Wan. Aiko morto. Impallidì, poi si sentì la testa in fiamme, guardò suo padre, lo vide seduto sulla sua sedia a capo chino. Sapevate, babbo? Domandò con voce rotta. Suo padre accennò di sì. Ieri, mormorò. Vorrei sapere com'è morto, disse brusco Chiang Kai-shek. Prese una lettera dalla scrivania e la porse a Daiwan. Era un foglio di carta sudicia con poche righe malamente sgorbiate in inglese e a matita. Non si vedevano firme, ma il testo era abbastanza chiaro. La lettera specificava i nomi di 5 uomini sorpresi a segreto convegno con elementi nemici. Il nome di Aiko veniva terzo. Aiwan alzò gli occhi verso quelli di Chang. Ma perché avrebbe mio fratello? Non poté finire la frase. Una congiura, disse Chiang Kai-shek, con l'aspra voce che gli era abituale. Una congiura. Il nemico aveva promesso a tuo fratello un'alta carica nel governo che costituirà. Accennò alla lettera che Aiwan aveva deposto sulla scrivania e continuò. Me la diede un messaggero una quindicina di giorni or sono, ma qualche cosa già mi era giunta all'orecchio. Feci chiamare l'uomo la cui firma non figura sul foglio, ma che aveva comunicato il suo nome oralmente all'uomo che a piedi e come potere era venuto da me con la lettera. Lo feci dunque chiamare. Venne e mi disse di chiamarsi Lim e che conosceva te e tuo fratello. Per una ragione sua particolare odiava tuo fratello. Fece una pausa e poi, beh, io mi servo dell'odio degli uomini. Di nuovo si interruppe e poi proseguì. Ebbi così la prova che tuo fratello era un traditore e l'ho fatto passare per le armi con gli altri. Aiwan ascoltò quelle parole ad una, prevedendo angosciosamente, mentre ascoltava, la chiusa del discorso. Ma non si mosse di dove era seduto e continuò a fissare Chiang Kai-shek. Come ha osato quell'uomo? Cominciò a balbettare con voce rauca. Gli pareva orribile che Lim, che aveva trattato con tanta affabilità, fosse stato lui la spia di Aiko. Ma Chiang si affrettò a dire: non condannarlo. È un uomo onesto, Lim, ma è molto semplice anche. Perdette la pazienza sentendo ripetere per diritto e per traverso fra la truppa che c'erano degli ufficiali che si facevano corrompere. Da quel semplice uomo che è, mise il naso nella cosa e fu coraggioso abbastanza da riferirmene direttamente. Ha vissuto in America, dove, dice, gli uomini sono spregiudicati. E dov'è adesso? Domandò Aiwan. L'ho rimandato al suo posto di combattimento, rispose Chiang Kai-shek, e non so che cosa sia avvenuto di lui. Non c'era altro da dire. Il padre di Aiwan non si mosse dal suo posto. Aiwan respirò profondamente e corresse il portamento. Cercò di non vedere tutte le immagini di Aiko che gli facevano ressa nel cervello. Aiko che giocava con lui nel giardino, al tempo dell'infanzia, quando tutti lo giudicavano forte e bello. Aiko che si impuntava quando gli si negava qualcosa e si buttava per terra sparando calci. Aiko, bel giovane. Com'era morto? Coraggiosamente, in silenzio, o da quel ragazzo viziato che era stato un tempo? Impossibile saperlo. Non voleva saperlo. Fu la moglie straniera, disse lentamente suo padre. La moglie straniera che farò rinviare al suo paese a insegnargli il disprezzo dei cinesi. Dal primo istante del suo arrivo qui, nulla era abbastanza buono per lei. Non le piaceva il nostro vitto, non poteva soffrire i nostri costumi, nulla valeva quello che ella vantava di avere nel suo paese. Rideva dei nostri soldati e diceva sempre che i giapponesi erano migliori e così Aiko cominciò a persuadersi che era inutile combatterli. E quando seppe che Cantone era ormai condannata, qui la voce del signor Wu si fece più bassa e sorda, pensò che tanto valeva. Guardò Chiang Kai-shek con occhi smarriti. Non lo difendo, sussurrò. Chiang lo lasciò proseguire con un'espressione di severa benevolenza, poi disse: ora ci siamo capiti a vicenda. Aiwan vide suo padre fare un cenno col capo e in quel momento sentì di amarlo come mai in passato. Uscite ora, diceva Chang a suo padre, riposatevi un poco, voglio parlare a vostro figlio. Suo padre si alzò e si inchinò. Quando fu uscito, Chiang Kai-shek improvvisamente cambiò. L'espressione benevola sparì dal suo volto, guardò Aiwan con occhi scuri e severi e disse: mi sono servito di te una volta e avevo progettato di servirmi una seconda volta, dopo una pausa. Ma sei sposato a una giapponese? Soggiunse aspro. Aiwan sobbalzò a suo malgrado. Quell'uomo sapeva tutto. ma non si smarrì. Infatti, disse, se tu sei figlio di tuo padre, sei anche fratello di un traditore, disse Chang, con voce più che mai aspra ed espressione più che mai dura. Come faccio a conoscerti veramente? Non saprei che dirvi, ribatté Aiwan. Quell'uomo era temibile, ma egli non voleva temere. Ti sentiresti di abbandonare tua moglie che è giapponese? Domandò Chang. Per ordine vostro? Chang, senza rispondere, continuò a fissarlo. No, proseguì con calma Yuan. Poi, dopo un momento, ho lasciato mia moglie e i miei bambini per venire a combattere. E combatto. Ma quando tornerà la pace, li farò venire qui. I miei figli sono cinesi e lei, mia moglie, mia fedele. Ah, ce ne vorrà del tempo prima che venga la pace. Questo lo so. Questa città, disse Chang, sarà in rovina. Guardò in giro nella stanza e poi fuori dalla finestra dove i tetti delle case della città popolosa si toccavano. Questa città e molte altre, forse. Quando tornerà la pace, c'è caso che non esistano più città. Resterà la terra, rispose Iwan. Ora capiva perché suo padre aveva detto le terre saranno tue e dei tuoi figli. Sì, resterà la terra, ripeté Chang. E poi, con uno di quei mutamenti improvvisi che Iwan aveva ormai imparato ad aspettarsi da lui, che tipo è tua moglie? Domandò. Per tutta risposta Iwan trasse di tasca le due ultime lettere di Tama che non aveva distrutto perché le aveva ricevute proprio prima di partire e desiderava rileggerle. Erano due semplici lettere tracciate da Tama con la sua scrittura fine e minuta. In esse diceva di non essersi sentita di tornare alla casa di suo padre nonostante la partenza di Aiwan. Seguiva una quantità di piccoli particolari sulla crescita di un albero nel giardino, sulla fioritura dei crisantemi che un tempo avevano piantato insieme, sulla lacerazione della carta di una tramezza per colpa del vento e conseguente riparazione ad opera sua e di Giro. Aggiungeva che i ragazzi erano cresciuti e crescevano e che lei diceva loro che il padre era un eroe perché combatteva per il suo paese. Esortava Iwan a pensare a loro in attesa del giorno in cui avrebbero di nuovo potuto riunirsi. Insomma, erano semplicemente le lettere che una moglie qualunque scrive al marito al quale vuol bene, combattente al fronte di non importa quale guerra. Aiwan scrutava il volto di Chang durante la lettura, ma non vi lesse nulla. Perciò, attese che Chang, a lettura finita, piegasse le lettere, le infilasse lentamente nelle buste come pensando ad altro e gliele restituisse. E ora, disse poi Chang, hai desideri da esprimere? Vorrei soltanto disporre di qualche giorno da passare con mio padre, rispose in fretta Iwan. Faremo una visita insieme alle nostre terre e a vite che finora non abbiamo mai viste. E poi? E poi vorrei tornare al mio posto nell'esercito, rispose Iwan. Concesso, esclamò Chiang Kai-shek. Si voltò e suonò il campanello che teneva sulla scrivania. La porta si aprì lasciando il passaggio alla signora. Aiwan capì che il colloquio era finito. Si alzò, si inchinò, ma Chiang Kai-shek non lo guardava. Dov'è la carta di quella nuova strada per la Birmania? Domandava la moglie, come se ella non si fosse allontanata dal suo fianco neppure un momento. Eccola, rispose lei ridendo. L'hai sotto la mano. Aiwan uscì con quelle parole nelle orecchie. La nuova strada per la Birmania, già finita. Aveva sentito dire che era in costruzione. Migliaia di uomini e di donne al lavoro. Strano modo, forse, di condurre una guerra. Era questo di costruire una grande strada verso ovest mentre il nemico bombardava le province orientali, ma era il sistema cinese. Chissà, forse il vero paese dei suoi figli sarebbe stato questa Cina interna, protesa non più verso il mare, ma oltre i monti, verso l'India. Chi lo sapeva? Chi sapeva mai qualche cosa? E andò in cerca di suo padre. Fine.